известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Where are y'all from? Cincinnati. Oh, long way from home. Buscando trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Soy vaquero. What line of work bring you to Texas? Border Patrol. A noi era piaciuto molto questo film sul narcotraffico, che dava dei fatti, delle motivazioni e anche dei personaggi coinvolti in queste storie, che poi si capirà in questa, anche forse in questa stessa puntata del nostro programma, che sono storie non piccole, avventurose e locali, ma sono in realtà storie enormi che spostano capitali formidabili e addirittura coinvolgono l'attività di presidenti come quello degli Stati Uniti d'America. Era piaciuto molto questo film intitolato Le tre sepolture, no? Con Tommy Lee Jones, di cui abbiamo riascoltato un piccolo brano, perché dava soprattutto il senso che poi c'è una frontiera particolare lunga 3.000 chilometri, lungo la quale è difficile far sì che la legge, la regola delle due nazioni confinanti, Stati Uniti e Messico, venga rispettata, e che molto in fondo è affidato agli individui che vivono da quelle parti. E se questi individui, come sta capitando negli ultimi anni in particolare, decidono di sviluppare attività criminose, il guaio è molto grosso. È un caso che, accompagnato da una folta delegazione, protetto da diverse migliaia di agenti della sicurezza locale, Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d'America, sia pronto ad atterrare a Città del Messico. L'arrivo da quelle parti è previsto per le 13 locali, le 20 ora italiana, quindi tra meno di 4 ore, e sarà la prima visita di Barack Obama in un paese latinoamericano. È tra l'altro una tappa in vista di un secondo appuntamento molto importante e forse altrettanto turbolento per Barack Obama, come minaccia di essere anche questo a Città del Messico, da dove si sposterà poi, dopo 20 ore di permanenza nella capitale messicana, a Port of Spain, a Trinidad and Tobago, dove si inaugurerà il quinto vertice delle Americhe e dove incontrerà i suoi omologhi, i suoi colleghi presidenti di 33 paesi del continente. Obama è stato preceduto in questa visita messicana da un'altra visita che è stata fatta da Hillary Clinton. È preceduto anche da una notizia molto importante, la decisione di aver nominato l'ex procuratore federale Alan Bursin zar della frontiera, una specie di plenipotenziario che dovrà coordinare la lotta dei diversi organi americani contro i narcos, quei narcos che, secondo i dati della DEA, dell'antidroga americana, avrebbero ormai un fatturato pari a circa 40 miliardi di dollari l'anno, grazie al traffico della cocaina e di altre droghe. Non dico che siamo dalle parti del budget, dello stimolo di budget necessario per far ripartire l'economia americana, insomma, ma non siamo lontanissimi, siamo alla decima parte, alla ventesima parte. L'arrivo del presidente coinciderà con un incontro immediato con Felipe Calderón, il presidente messicano, di cui Barack Obama ha detto che sta facendo un lavoro eroico nell'affrontare un problema enorme come quello che si affaccia proprio sui confini americani. Obama ha detto alla CNN che gli Stati Uniti stanno cercando di fare la loro parte, e questa è un po' la novità della gestione di Obama di questo problema, perché non ci si limita ormai più a intercettare il traffico che sale al nord dal sud, fatto probabilmente quanto materiali intercettati a partite di droga, ma si cerca di bloccare anche il traffico illecito da nord verso sud, che sono fondamentalmente armi, quattrini e merci di scambio con la droga. Tra l'altro Washington avrebbe aggiunto 3 cartelli messicani che rispondono ai suggestivi nomi di Sinaloa, Los Zetas e la famiglia Michoacana alla lista nera dei boss della droga, e tutto questo è stato fatto con una procedura accelerata rispetto a quel procedimento che di solito prende oltre un anno e che è stato, per ogni caso particolare, che è stato usato in passato nella lotta ai narcos colombiani. Sempre a margine della visita di Obama, i consuntivi fanno sapere che 10.000 persone sono state uccise in Messico in incidenti violenti, armi da fuoco, fondamentalmente legati alla droga, da quando nel 2006 il presidente Calderón ha alzato il tiro nella lotta contro i narcos. 10.000 morti vogliono dire una guerra. E quindi c'è questo nuovo approccio che l'amministrazione americana vuole intraprendere nei confronti di questo problema. La dottrina fin qui era stata sempre quella di considerare la questione narcotraffico un problema locale, un problema messicano da combattere e risolvere quindi sul territorio messicano, anche se poi era chiaro a tutti il dato essenziale della questione: la clientela era fondamentalmente, la clientela dei consumatori delle droghe provenienti dal Messico era essenzialmente americana, e quindi tutto ciò esisteva perché, naturalmente, come insegnano le leggi di mercato, appunto esisteva un mercato tra l'altro sempre più avido di prodotti differenziati, tutto ciò che rappresenta, no, la regola di un consumo che nel corso degli anni è diventato sempre più sofisticato, sempre più radicato negli usi americani. Il mese scorso Hillary Clinton aveva offerto l'aiuto americano al governo messicano. Come contributo di urgenza aveva promesso degli elicotteri da combattimento, 2 elicotteri da combattimento da utilizzare nella zona nord del Messico, al confine con gli Stati Uniti, dove peraltro poi ci sono questi episodi violenti, morti di cui sopra. Sono 5.300 morti solo l'anno scorso, sono cifre impressionanti. Pensate ai caduti americani in Iraq, sono 4.000 e alcune centinaia. La Clinton, ma soprattutto, aveva ammesso appunto le responsabilità, e questo è stato il passo importante dell'amministrazione Obama: ammettere le responsabilità americane in fatto di narcotraffico. Tutto parte dalla richiesta del mercato statunitense, l'incapacità delle autorità americane di fermare il traffico verso il Messico, il traffico di restituzione, naturalmente. E se non sei la soluzione, sei il problema, scrive un giornale americano, rievocando proprio questo tentativo di modificare le responsabilità messo in atto da Hillary Clinton. Rosanna Fuentes-Berain, che è una giornalista spagnola, ha sottolineato che per la prima volta da decine d'anni a questa parte gli americani hanno accettato al massimo livello di riconoscere una loro responsabilità condivisa per quanto riguarda il traffico di droga. Come dire, senza generosi clienti a nord del Rio Grande, difficilmente i cartelli narcos sarebbero diventati una vera e propria superpotenza che in questo momento controlla o quasi controlla la frontiera e intere zone del Messico. Poi, naturalmente, a margine di questa, che è l'emergenza principale di cui discuteranno Obama e Calderon, c'è l'altro grande discorso, un discorso non dico eterno, ma sicuramente con una certa stagionatura, che è quello sulla immigrazione, l'immigrazione dal sud verso il nord, dal Messico verso l'America. Si comincerà a delineare l'approccio di Obama nei confronti di questo problema, dopo che lo stesso approccio di George W. Bush si era più volte modificato, senza però poi arrivare a una soluzione definitiva. Ora si parla di una grande sanatoria che metterebbe in regola milioni e milioni di clandestini negli Stati Uniti d'America e di una rinata, ripartita collaborazione tra Messico e Stati Uniti anche su questa base. Poi vi ricordo, a Trinidad e Tobago ci saranno molti personaggi particolari ad attendere Barack Obama per il vertice delle Americhe, che non sarà sicuramente una passeggiata per il neo presidente statunitense, se pensate che ad attenderlo troverà leader decisamente scomodi, no? Come il venezuelano Hugo Chavez, il boliviano Evo Morales, il presidente del Nicaragua Daniel Ortega, no? L'uomo della rivoluzione sandinista, anche il colombiano Álvaro Uribe, che invece aveva una liaison, un rapporto particolarmente ravvicinato con George W. Bush. Poi ci sarà Lula, che già ha incontrato Barack Obama e con il quale già si è avviato un rapporto di collaborazione. Ci sarà il rappresentante di Cuba, che non essendo una democrazia però non fa parte di questo club panamericano, ma non c'è dubbio che Cuba sarà uno degli argomenti essenziali sul tavolo delle discussioni di questo vertice con Barack Obama, che in questa occasione dovrà giocare sì la parte del neo arrivato carico di buone iniziative e nuove idee, ma dovrà rispondere anche a molte responsabilità che l'America ha accumulato nei confronti delle condizioni dei continenti del Nord America e del Sud America. Come saprà gestire questa situazione? Come soprattutto si proporrà a un vertice di questo genere, a una platea di questo genere, al grande sconfinato popolo del Sud e Centro America? È tema di grande interesse vedere se modificherà, cambierà, adatterà il proprio stile, i propri argomenti e tutto ciò che l'ha portato in così breve tempo a diventare il politico di maggior successo del XXI secolo. No debes olvidar besar. Siempre es besar, igual que suspirar. Y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz. También sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Unas canciones no tienen hierro. Pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. As the years go by, el tiempo va. Questa è la Casablanca, no? La versione del Buena Vista, che mi dispiace ma nessuno ve lo toglie di torno, visto la premessa che abbiamo fatto, l'ambientazione latina di questa puntata di Jefferson, che adesso, come dice il nostro ormai vetusto spot, apre il suo grandangolare, guarda il mondo 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Eccolo, 360 gradi, caro Emiliano, vediamo i punti sensibili del pianeta. E in effetti facciamo una bella sterzata, perché delle atmosfere latine passiamo a quelle cinesi. Oggi c'era grande attesa, quasi come un mantra, dei dati del primo trimestre di quest'anno del PIL. Tutti aspettano di vedere come va la Cina, che potrebbe essere davvero la locomotiva del mondo. Tra i tanti, qualche tempo fa anche Jacques Attali, insomma, noto economista, uomo di Stato francese, ha detto: ricordatevi che si affonda la Cina, affondiamo tutti insieme con lei. E oggi sono usciti questi dati ufficiali che parlano di una crescita in questi primi tre mesi del 2009 del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non è un dato esaltante, ma neanche troppo catastrofico. Nel frattempo l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,6%, in particolare la produzione industriale è aumentata soltanto del 5,1%. Di fronte a questi dati, Wang Jiabao, il premier cinese, ha comunque voluto lanciare segnali di fiducia, perché ha detto che tutto sommato gli ultimi dati sul PIL mostrano che l'economia gode di una salute migliore rispetto al previsto. Ieri abbiamo parlato della brutta fine che ha fatto Phil Spector, no? Grande, forse il più famoso produttore musicale del pop inglese e americano, condannato per omicidio di secondo grado, destinato probabilmente a finire i suoi giorni in un carcere californiano, il carcere evitato miracolosamente a suo tempo da un'altra celebrità come O.J. Simpson, ricorderete, in pieni anni 90, il famoso caso giudiziario che tenne col fiato sospeso l'America e venne seguito con grande interesse anche in Italia. Proprio di O.J. Simpson ha parlato ieri un personaggio che curiosamente ormai è un eroe anche in Italia, si chiama Hulk Hogan, vedo che ti brillano gli occhi. Il nome di Hogan è quello strano signore, dirò così, con dei baffi a manubrio color biondo cenere e che fa di mestiere il lottatore di wrestling, nonostante abbia un'età non rivelata, ma sicuramente altissima, che si sta separando dalla moglie, e oggi le pagine di società di colore dei giornali americani sono pieni della notizia che avrebbe dichiarato ai reporter che capisce perfettamente O.J. Simpson e che gli tenessero le mani legate dietro, perché sennò la bella e altrettanto bionda Linda, sua moglie, potrebbe fare la stessa fine. Un altro di questi terribili esempi lanciati da questo discutibile mondo del wrestling, di recente anche costellato di tragedie, ma che continua, come dire, a sorridere di fronte all'orrore, perché poi il wrestling è un po' quello, sorridere davanti all'orrore. C'è una cosa bruttissima. Esatto, una cosa bruttissima. Comunque può fare una campagna per, diciamo, che è una cosa bruttissima. Ricordi d'infanzia, Hulk Hogan. Poi c'era invece il compare giapponese Antonio Inoki, no, nel catch, che era il suo rivale. Vedo che molto entusiasmo. Dalla regia parte apprezzano questi ricordi veramente di un'altra epoca. Non abbiamo detto una cosa bruttissima. Però forse il catch giapponese era più serio. Vabbè, non lo so. Andiamo avanti. Allora, veniamo invece ad una storia di spie tra Cina e direi soprattutto Stati Uniti, perché da un po' di ore, quasi da un giorno, è in orbita un satellite cinese. I cinesi, quando lanciano i satelliti, fanno le cose bene e in grande, non come i coreani che lanciano satelliti che sembrano dei missili. Comunque, insomma, è in orbita questo satellite che fa parte di un progetto molto ampio e molto ambizioso dei cinesi per realizzare quella che definiscono una rete alternativa al sistema per il posizionamento globale, cioè al GPS che funziona su base dei satelliti americani. Molti però, di fronte a questo lancio da Pechino, si sono chiesti le finalità di questa iniziativa del governo cinese. Qualcuno teme che al di là degli obiettivi commerciali e politici ci siano anche finalità più pericolose, militari, di spionaggio. In particolar modo Washington si è allarmata. Il Pentagono dice che Pechino ha già lanciato almeno 5 satelliti. Pechino naturalmente smentisce, qualcuno sostiene che questo sistema darà notizie più sicure sulla navigazione e la posizione delle forze militari e quindi ce ne saranno benefici per l'esercito cinese, soprattutto per le sue armi guidate di precisione. Naturalmente Pechino respinge le accuse, però insomma c'è questo clima un po' da guerra fredda tra Pechino e Washington, vedremo come andrà a finire. Insomma, la Cina vuole sganciarsi dal sistema GPS made in USA. Ormai sui giornali, anche sui giornali internazionali, tipo l'Herald Tribune, comunque ragionavo stamattina, no, ma fa anche effetto il numero di centimetri di notizie ormai dedicati alla Cina, che è pari se non superiore a quello dedicato agli Stati Uniti. Voglio dire, 5 anni fa mica era così, insomma il mondo in questo sta cambiando molto molto in fretta. Ma invece un assunto delle ultime ore è quello che più o meno recita che una notizia sul cane al giorno non ve la togliete più di torno, diciamo, perché ha colpito ancora. Ha colpito ancora, tra l'altro ieri ho passato buona parte della serata, sto scherzando naturalmente, a osservare le foto del cane che ha, secondo me, una coda fastidiosissima, non so se siete d'accordo e se l'avete osservata, fatelo perché è un obbligo anche questo di un sociale. Ha questa coda a pennacchio, il cao de agua portoghese della famiglia Obama, che mi è del tutto intollerabile, ma chi se ne frega di questo, l'importante è che c'è il libro. 24 ore dopo l'arrivo del cao de agua, che si chiama Bo, alla Casa Bianca, è pronto il libro, molto instant, 32 pagine, si chiama per i più spiritosi Bo American Commander in Leash invece che in Chief, che vuol dire invece che comandante americano in capo, comandante americano in guinzaglio, e è un libro per bambini, e la casa editrice ha promesso di non nominare Sasha e Malia, le bambine Obama. Ma chi Obama. Lo firma questo libro? Ma non chi se sa. Ne frega, comunque adesso te lo dirò per far vedere che se lo firma un certo Naren Arial, adesso che lo sai, insomma, cosa, no? 32 pagine, saranno tutte foto di Boh. No, pensavo che Obama le bambine di suo non sono, non sono nominate, no, no, la famiglia Obama spero bene che non c'entra, perché se la becchiamo che entra col libro di Boh, come si dice, sono guai. Oí que alguien cantaba una buena canción. Era muchacho dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte tuve de conocerle. Toca mi piel cuando dice unas palabras de amor. Suave me mata su ritmo y al encontrarle ya nada pareció extraño. Me hizo sentir de nuevo la pasión. Pedazos de mi vida narraba su canción. ¿De dónde me conoce? Qué extraño, pensé yo. Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto. Comincia la giornata di viaggio per il presidente degli Stati Uniti d'America. Le televisioni news americane rimandano le immagini dell'Air Force One, tutto bello lucidato, l'hanno lavato stamattina presto evidentemente, ed è pronto sulla pista di Andrews, da dove decollerà alla volta di Città del Messico. Notiamo particolare entusiasmo, ancora abbiamo dato una notizia terribile, questo ha detto una cosa bruttissima Hulk Hogan, ma molti fans invece non se ne danno per inteso e inneggiano all'eroe baffuto. Tra l'altro abbiamo Giacomo che sostiene che Hulk Hogan avrà circa, secondo lui, 60 anni, invece siamo andati a fare una breve ricerca, risulterebbe addirittura più giovane, addirittura 56 anni, ma noi ci crediamo abbastanza poco. Poi c'è anche un messaggio affettuoso da parte di Joel che ci ricorda che iniziano i playoff di pallacanestro NBA, cominciano, se non sbaglio, domenica, ne siamo ben al corrente. Ci chiede se Daniel Hackett, che nonostante il nome è un giocatore italiano che ha giocato in California al campionato universitario fino alle recenti finali, ha una possibilità di essere scelto almeno al secondo turno e diventare il quarto italiano all'NBA, ma insomma così secondo me è più probabile magari vederlo in azione in Italia, sarebbe anche bello vederlo in azione l'anno prossimo. Ma adesso invece torniamo agli argomenti in scaletta, quelli importanti, quelli che contano, perché vogliamo occuparci di Thailandia e dei gravi disordini culminati anche con dei morti negli ultimi giorni a Bangkok. Siamo in collegamento con Luca Vinciguerra, il corrispondente da Shanghai del Sole 24 Ore e anche un conoscitore sia della Thailandia sia di Bangkok sia dei fatti in essere nelle ultime ore. Ci collegammo già qualche tempo fa quando l'aeroporto internazionale venne bloccato per giorni da manifestanti antigovernativi. Buongiorno Luca, come stai? Sì, buongiorno, buongiorno. Io sto bene, sono rientrato qualche ora fa da banco. Ha maggior ragione, quindi hai sicuramente notizie fresche. Noi abbiamo cercato di farci un po' un'idea di quello che è accaduto negli ultimi giorni in Thailandia. Insomma, sembra esserci fondamentalmente una contrapposizione fra due personaggi, un personaggio uscito di scena, ma evidentemente non prono a questa condizione di esiliato a cui è costretto, che si chiama Thaksin, e poi invece un primo ministro in carica che si chiama Abhisit, proprio adesso le pronunce giuste me le darai tu, che sta facendo in modo di mantenere l'ordine e non accettare dall'ex primo ministro in esilio questo tentativo di rimettersi in gioco sulla scena politica thailandese. Ma dacci, Luca, maggiori particolari, facci capire chi sono i protagonisti di questa disfida e magari anche quali sono le motivazioni alle spalle degli scontri e dei disordini. Ma guarda, è una situazione abbastanza intricata, cercherò di spiegarla nel modo più chiaro possibile. Certo. Allora, da un lato usiamo i colori, perché nella lotta politica thailandese da sempre, non da questo giro, ma da decenni, si va per colori, cioè le fazioni contrapposte hanno dei colori diversi, che in questo caso abbiamo i gialli e i rossi. I rossi sono stati, le magliette rosse, le camicie rosse sono stati i protagonisti degli scontri dei giorni scorsi. Certo. Allora, i rossi sono i sostenitori di Shinawatra Thaksin, che è appunto l'ex primo ministro destituito da un colpo di Stato nel 2006 e poi è andato in esilio volontario, è bene precisarlo, per sfuggire a un processo per corruzione che era stato intentato a suo carico. Uh-huh. Dopo il colpo di Stato i militari hanno rindetto nuove elezioni, si è andati alle elezioni e le elezioni le ha rivinte il partito dei rossi, cioè il partito di Thaksin. Uh-huh. Una sua testa di legno che si chiama Somchai è stato messo a capo del governo. Lo scorso dicembre i gialli, cioè i nemici di Thaksin, che poi rappresentano il vecchio potere thailandese, cioè la borghesia di Bangkok, la famiglia reale, alcuni esponenti dell'esercito, hanno occupato l'aeroporto chiedendo la caduta del governo perché lo ritenevano illegittimo. La Corte Costituzionale gli ha dato ragione decretando che il partito di Thaksin aveva fatto dei brogli elettorali, è caduto quel governo e al potere è andato Abhisit, che ha formato una specie di governo delle larghe intese, ma che comunque è espressione dei gialli e del vecchio gruppo di potere thailandese. Nei giorni scorsi, a loro volta, i rossi hanno protestato sostenendo che il governo di Abhisit è illegittimo perché non è stato formato dopo le elezioni, quindi chiedevano una convocazione delle urne immediata. Uh-huh. E così si è arrivati agli scontri di cui abbiamo dato cronaca, purtroppo abbiamo visto anche le immagini in certo. televisione. Questo spero di aver riassunto in modo certo. abbastanza chiaro. Ecco, ma qual è, Luca, qual è la qualità di questi personaggi? Intendo dire la qualità politica e anche il fattore democratico, almeno per quello che possiamo intuire noi con i nostri parametri. Ma guarda, adesso Thaksin, per carità, Thaksin è un miliardario, no? È un personaggio. È un miliardario che è calatissimo, che controlla un potere, che aveva un potere economico enorme in Thailandia fino al colpo di Stato. Ricordiamolo, da quando lui è andato in esilio, poi gli sono stati congelati tutti i suoi beni all'interno del paese. Che controllava tutte le televisioni, la stampa, le telecomunicazioni, cioè era veramente un monopolista. Bisogna dire che però ha in effetti introdotto un elemento di novità nella politica thailandese, perché ha rotto comunque un sistema di potere che durava da 50 anni con tutte le corruzioni e le collusioni sempre fisiologiche a questi sistemi di potere che durano troppo tempo. È stato eletto democraticamente, ha avorato una politica, la famosa taxonomics, che comunque ha un suo senso, cioè diversi osservatori asiatici al di fuori della Thailandia hanno sposato la teoria di Thaksin, cioè il fatto di incrementare il reddito dei più poveri, delle popolazioni agricole, è un'idea intelligente perché aiuta questi paesi come la Thailandia, come la Cina stessa, lo sta facendo anche la Cina, uh-huh. a svincolarsi un po' dalle esportazioni e quindi non essere più dipendenti esclusivamente dalle fluttuazioni dei mercati esterni e di creare una propria domanda domestica che aiuta in qualche modo la macchina economica certo. a crescere e a sostenersi da sola. Quindi diciamo che Thaksin ha anche delle sue qualità, no? Dietro tutte le... i gialli, il partito governativo, alla alla fine, appunto, comunque non è stato eletto democraticamente, cioè alle ultime elezioni non ha preso tutti i voti, ancorché ci sia questa contestazione per voglie elettorali. Parlando di Abisit, si tratta comunque di un personaggio brillante, è un giovane che ha studiato a Oxford, sicuramente preparato, sicuramente ha voglia di arrivare a una pacificazione della Thailandia, bisognerà vedere come. Perché Thaksin, sebbene sembra i suoi quattrini siano un po' agli sgoccioli, ci sono, secondo alcune voci, avrebbe speso 30 milioni di dollari per finanziare le rivolte dei giorni scorsi, che hanno portato all'annullamento del vertice dell'ASEAN di Pattaya e poi di scontro di Bangkok. Certo. Thaksin non si darà sicuramente per vinto. Se Abisit dovesse convocare nuove elezioni, ci sta che il partito dei rossi, cioè il partito di Thaksin, le rivinca nuovamente, creando una nuova situazione di impasse. L'esercito, dopo il colpo di Stato del 2006, da cui non aveva cavato un ragno dal buco, cerca di starsene fuori il più possibile. Insomma, ecco, ripeto, non è. Però mi sembra di capire che dal tuo punto di vista, insomma, dal punto di vista occidentale, un giornalista occidentale, questa politica thailandese, per quella che possiamo capire, decifrare e confrontare con i nostri esempi, sia una politica in divenire, ormai agganciata alla modernità. È così, secondo te, Luca? Sì, no, sicuramente, insomma, ormai qui, diciamo che negli ultimi 20 anni, da quando in Asia sono cadute le dittature, questi paesi hanno dovuto iniziare a parlare il linguaggio della democrazia occidentale, che però non risulta sempre facile, cioè il caso della Thailandia, il caso delle Filippine, il caso dell'Indonesia, il caso di Taiwan, il caso della stessa Corea del Sud, cioè è stata una transizione, è una transizione che è difficile, insomma, proprio perché, questo forse noi italiani non dovremmo parlare, è difficile creare delle coalizioni stabili, si tratta sempre di coalizioni un po' arrangiatici, insomma, che poi rendono il quadro politico particolarmente instabile. Comunque, ecco, se posso chiudere, cosa sarà il prossimo passo? Probabilmente l'unico passo che potrebbe portare a una pacificazione della Thailandia oggi potrebbe essere il ritorno dello stesso Thaksin. Ecco, sebbene appunto il governo in questi giorni abbia messo un mandato di cattura contro di lui, sebbene gli abbia ritirato il passaporto, non è escluso che tramite una mediazione del re Thaksin rientri in qualche modo nel paese, in qualche modo ceda lo scettro, cioè adotti una politica conciliante, si rimpossessi, cosa non di poco conto, dei suoi beni, che ricordo ammontano a 2 miliardi di dollari, e in qualche modo si arrivi a una conciliazione di questo tipo. Questo mi sembra lo scenario più probabile, ecco. Però tra 2 mesi di dover tornare a Bangkok perché riesplode. Luca, per concludere, in tutto questo scenario drammatico, ripetiamo, ci sono state anche delle vittime in questi disordini, poi appare anche, e su questo ti volevo chiedere qualcosa, la figura di un cantante pop locale che noi non conosciamo, segnalato come uno dei leader della protesta. Ne sai qualcosa? Non ho avuto modo di incontrarlo, l'ho letto anch'io sui giornali thailandesi. Soprattutto non l'hai mai sentito, perché noi eravamo curiosi di sapere. No, soprattutto non l'ho mai sentito, ecco, no, sono onesto, non ho mai sentito la sua canzone. Insomma. Va bene, dobbiamo documentarci, adesso andremo su internet, faremo una ricerchetta. Si chiama Aris... Credo che fra l'altro sia tra i 3 arrestati questo signore, perché dei 12 contro cui è stato, tra cui Thaksin, dei 13 verso i quali è stato spiccato, diciamo, il mandato di cattura, 3 o 4 non sono stati arrestati, e uno di questi, se non sbaglio, è proprio il cantante, insomma. Che si chiama Arisman Pong Reong Rong, non proprio un nome, come dire, un diminutivo d'artista, era più facile se si chiamava Drupi, però lui si chiama così, Arisman Pong Reong Rong, e se per caso volete andare a cercare per sentire la voce del cantante rivoluzionario in Thailandia su internet, credo se ne trovino ampie tracce. Grazie a Luca Vinciguerra, corrispondente da Oriente, in questo caso dalla Thailandia, adesso le 24 ore. Little darling, it's been a long, long, lonely winter. Little darling, seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Little darling, the smiles are returning to their places. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Years since they've been there, and here comes the sun, there goes the snow, and I say it's all right. Express yourself. Quindi il popolo di navigatori e di wrestler anche l'Italia, sì. Stiamo non pensavamo facciamo un programma in wrestling, non pensavamo che nel mio... basta dire wrestling e l'Italia si immobilizza. Devo dire che nel mio entrare e uscire dallo studio anche in redazione i colleghi del genere si è scatenata una discussione ai nomi di Hulk Hogan e Antonio Inoki. Ecco qua. Comunque per l'ascoltatore qui era dovuta una risposta, ci chiedeva notizie di Jake the Snake. Misconosciuto lottatore nativo del 55, quindi spero anche lui ormai dedito a una bella pensione in Florida. Jake Roberts, vero nome, alias El Diablo, alias The Texan, alias Jake the Snake. È vivo e vegeto, pare faccia dei film contro la droga. No, credo che abbia fatto un programma di riabilitazione. Ah, un programma della droga. Ah, lui. Ah, scusate, no. Non è così buono, eh. Mentre per chi ci chiedeva notizie specifiche di Hulk Hogan, credo che abbia combattuto fino a questa mattina, insomma continua a darsi da fare, sì, fa delle cose in TV. Lo vedo. E poi era annunciata una sua presenza, un suo cameo, come si dice in gergo, in Scary Movie numero 5, atto quinto di questa saga, di questa parodia infinita. Ad alto livello culturale. Però io Scary Movie 5 non l'ho visto, neanche gli altri per la verità. Questa, non so dirti se è un buco nella tua cultura che dovrai presto colmare. Rimedierò. Sotto corre Express Yourself, perché è tempo di discutere, di confrontare i pareri, e questo, bene o male, anche con i suoi buchi, è un programma insomma che di giornalismo si occupa. Oggi le prime pagine dei siti e dei giornali italiani di giornalismo parlano, il caso Santoro / Vauro è dappertutto, si parla di sciacallaggio mediatico, di parzialità, di buona e cattiva informazione, di confini invalicabili del gusto, di vignette si ritirano fuori, tanto per proiettarci in chiave internazionale come mandato di Jefferson, le vignette su Maometto, non so se ve le ricordate, no? L'Occidente mobilitato pro vignette di Maometto, a Oriente stavano per mandare quelli che ti tolgono di mezzo. Insomma, questione di sensibilità, c'è un grande discorso, un grande dibattito tra chi apprezza e chi non ha apprezzato affatto. C'è un intervento di Aldo Grasso oggi sul sito del Corriere della Sera, un intervento video, dice che c'è diritto di satira e diritto di critica, ma a lui non è piaciuta la sensibilità e il tempismo di quel numero di Anno Zero. Abbiamo voluto chiedere anche a voi che cosa ne pensate. Le domande erano: chi deve giudicare l'equilibrio di una trasmissione giornalistica? È giusto criticare Santoro? Perché ad altre trasmissioni viene riservato raramente lo stesso trattamento, sia in senso di accusa che in senso di difesa? E voi avete detto la vostra. E allora, in attesa della puntata di questa sera di Anno Zero, già ampiamente reclamizzata, capirei, e che forse avrà in serbo qualche colpo di wrestling e catcher, che potrebbe essere una bella puntata dura, Hulk. Cominciamo da Matilde, che dice: non sono una spettatrice di Santoro, ma nonostante ciò ho sentito delle vignette di Vauro e posso affermare che non vi ho trovato nulla di sconvolgente. Certo, è umorismo macabro, ma è meglio del patetismo offerto da altri. Interessante l'angolazione di Matilde, come anche quella di Giovanni, che invece dice perentoriamente la libertà di espressione è fondamentale per un paese democratico e civile, ma quando questa decade mascherando gli insulti e il disprezzo come satira oppure la faziosità per giusta informazione, allora è un dovere intervenire per equilibrare ciò che si trasmette nel rispetto delle attese comuni. Quindi Giovanni è dalla parte di Masi e di chi vuole tamponare Santoro. Quindi la possibilità di mettere in discussione comunque non solo l'eventuale cattivo, forse imperdonabile gusto delle vignette di Vauro, ma anche un altro tipo di giornalismo, no? Quello del che cosa ha provato quando ha scoperto suo fratello è morto, per dirne una, che magari è altrettanto brutto, no? È altrettanto impresentabile il giornalismo, è un discorso. Comunque Manuel ci scrive che secondo lui il giornalismo è morto, ora c'è solo una vendita di notizie che tirano. Mauro scrive: l'unico strumento di critica autorevole e legittimato è il telecomando. Infatti, dice, mi capita raramente di vedere una puntata di Anno Zero dall'inizio alla fine, ma nonostante questo, parafrasando Voltaire, credo, dice, non condivido per nulla le tue idee, ma sarei disposto a dare la vita affinché tu le possa esprimere. E allora, analisi perentoria anche questa, è anche venata di sarcasmo di Michele, che scrive, omonimo di Santoro, dice: Santoro è un professionista che conosce la televisione perfettamente, come le tasche dei suoi impeccabili abiti Armani, ed è molto ben introdotto politicamente, compie il suo ruolo alla perfezione da anni, come da copione e come dimostrano i prezzi per l'inserimento pubblicitario nei suoi stacchi. Non gli sta simpatico. Però è preparato, pare, Michele. Poi c'è invece Nikita, che addirittura scomoda il giorno della civetta, il grande Sciascia, e dice: l'umanità si divide in uomini, mezzi uomini, ominicchi, ruffiani e qua qua qua. Per sapere a quale gruppo si appartiene basta fare il test della barba quando ci si rade la mattina e poi ci si specchia. Avete capito? E quindi speriamo di aver capito. Non so però anche lui in che categoria inserisca il nostro Santoro. Ha molti sensi. Umberto dice: il demiurgo moderno, il conduttore, è Giove e tutto il Pantheon al tempo stesso. È Giove e tutto il Pantheon. Calibra, minimizza, nasconde, tempi, lacrime e chiama alle armi o decide confini. TV è la cultura. Una lettura altamente sociologica quella offerta da Umberto. Vi leggo anche Francesco, che dice: porrei un'altra domanda. È giusto sacrificare il buon gusto in nome dell'audience? Parecchi insistono su questo, Allora andiamo avanti con Ivan, che dice: Santoro, Trolli e Company li conosciamo e li metto sullo stesso piano di Emilio Fede, mascherati diversamente. Sul cattivo gusto della famosa vignetta non penso sia il caso di farci un caso politico. Peter: ho visto la trasmissione e non mi è piaciuto, ho visto le vignette di Vauro, non mi sono piaciute, ma questo non basta per una censura. Poi tanti altri, Luigi: non ho visto la trasmissione né tantomeno le vignette, non riesco a guardare Santoro perché mi irrita la sua partigianeria. Massimo: che Santoro sia fazioso lo sanno anche i sassi. Ferruccio: Santoro, Vauro e Travaglio sono personaggi e devono la loro notorietà al fatto di essere, a torto o ragione, nel bene o nel male, sempre e comunque controcorrente. Ettore: Vauro non mi fa molto ridere, Berlusconi sì, ci deve essere qualcosa che non va evidentemente. Scherzi a parte, conclude. Non so se è il caso di scherzare. Però devo dire che la simpatia per Santoro non è molta tra i nostri ascoltatori, però vince il partito di chi è contro la censura. Questo era il bilancio. Poi stasera appunto faranno, vedremo che succederà. E faranno anche gli sul ascolti, ring di Anno Zero. Purché lo spettacolo vada avanti, no? dice il vecchio adagio dello show business americano. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta, che invece si ferma qui. Oggi sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Valeria Bernardi a Milano. La mail jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook, iscrivetevi numerosi a redazione Jefferson 2 per parlare con noi, o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare agli ormai leggendari forum. Il programma va in replica a mezzanotte, il podcast sul sito della radio, appuntamento attorno alle 4 qui su Radio 24.